Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Negli anni 70 esisteva in Italia la CEAT, che fabbricava pneumatici. Era di proprietà della famiglia di Carla Bruni, famiglia che scappò dall'Italia, destinazione Francia, per evitare i sequestri di persona che a quell'epoca, purtroppo, erano in auge. Le fabbriche scomparvero e con esse occupazione indotto. Se quel che scrivo è vero, lo ricordo da anni, ma non so la fonte, quindi potrebbe essere una bufala, non capisco cosa abbia da lamentarsi dell'Italia la signora Carla. Marina Petrella, brigatista che lei ha protetto poche settimane fa, era una di quelle che indussero i suoi familiari a scappare dal suolo patrio. E ora si lamenta perché Berlusconi non la rappresenta come vorrebbe e preferisce la Francia. Se è tutto vero, francamente, mi auguro che in Francia ci rimanga per sempre e senza fare danni a noi italiani, che la dimenticheremo facilmente. Saluti, Nino. Se i cittadini italiani avevano qualche vaga speranza che i muri delle loro città potessero tornare puliti, è meglio che abbandonino la loro insana idea. Infatti, quelli che contano nel nostro paese hanno detto che questo non sa da fare. E che anzi, di graffiti dovremo sorbircene di più, perché rallegrano la città grigia, perché esprimono la creatività, perché ci sono sempre stati, perché anche la russa è d'accordo. Eccetera, eccetera. Intellettuali, testate giornalistiche, siti web, tutti quelli che contano nel nostro paese si sono mobilitati sul fenomeno graffiti. Non per difendere i cittadini da chi da decenni imbratta le loro case e i luoghi pubblici, ma per difendere gli imbrattatori e i delinquenti. La cosa ha dell'incredibile. Sono stati assoldati tutti gli intellettuali possibili, nonché i graffitari stessi, intervistati come eroi, per sviolinare a favore della street art e per portare avanti i peggiori luoghi comuni socio-psico-marxiani a favore dell'espressività giovanile, l'arte pubblica, eccetera. Ma per favore, ma dove siamo finiti? E nessuno spazio alla ovvia considerazione di buonsenso, e cioè che la creatività e l'arte si possono esprimere anche senza usare i muri, o perlomeno i muri esterni, come del resto hanno fatto tutti i grandi pittori del passato, da Giotto a Van Gogh a Picasso. Forse la nostra casta intellettuale capirà la differenza fra arte e scemenza quando qualcuno farà dei graffiti sulla carrozzeria della loro auto metallizzata, dicendo poi che sta colorando la città grigia. Angelo. Mi rivolgo a tutte le istituzioni, politici e cittadini italiani, per i quali sarebbe stato meglio vendere l'Alitalia a Air France. Ma sì, vendiamo tutte le nostre attività in deficit agli stranieri. Vendiamo le linee aeree ai francesi, le autostrade agli spagnoli, le linee telefoniche ai tedeschi, le televisioni agli australiani. Vendiamo la Toscana agli inglesi, le ville del lago di Como ai russi, le banche agli stranieri. Invadiamo il mercato di ipercentri commerciali di proprietà dei francesi, tedeschi, arabi e spagnoli. Mettiamo in vendita tutta l'Italia al miglior offerente. È come se a casa mia, in un momento di difficoltà economica, dovuto al fatto che spendo di più di quello che guadagno, quindi per mia incapacità e incompetenza, invece di rimettere il bilancio in regola, spendendo di meno o lavorando e guadagnando di più, metto in vendita la mia casa. E poi cosa dico ai miei figli? Che futuro avranno tutti gli italiani quando i nuovi padroni diranno «Non mi servi più, vattene da casa mia». Abbiamo già svenduto il nostro orgoglio. Antonio. Leggo sulla stampa l'enorme quantità di denaro, miliardi di euro, oltre all'incalcolabile valore dovuto alle perdite umane, speso per le guerre in Palestina, Iraq e Afghanistan. Mi sono posto la domanda, se tutto questo denaro fosse stato speso per risolvere il problema dei palestinesi, attraverso la costruzione di infrastrutture, strade, case, scuole, la preparazione di terreni coltivabili, la costruzione di centrali elettriche, la potabilizzazione delle acque e infine la formazione delle persone. Non pensate che probabilmente con questa via, questa sì rivoluzionaria, la pace tra israeliani e palestinesi sarebbe stata possibile? e poteva anche essere evitata la guerra in Iraq e certamente si sarebbe smorzato il terrorismo per l'eliminazione delle motivazioni di fondo. Domenico, Roma. Sembra che Brunetta sia un extraterrestre, quando le cose che sta proponendo sono normalissime in altri paesi. Giuseppe. Cara redazione, sono una normalissima diciottenne che sente costantemente parlare male del proprio paese. Purtroppo credo che pochi giovani ormai riescano ancora a guardare la bella faccia della nostra medaglia. Io, come tanti altri, sono al punto della mia esistenza in cui devo decidere cosa voglio fare della mia vita. Penso alla facoltà che mi piacerebbe frequentare all'università, al lavoro che potrei fare se tutto dovesse filare liscio. E poi? Poi mi guardo intorno e mi vedo più o meno 25enne. In molti mi invidieranno, perché ho ancora davanti una strada da scoprire. Peccato però che non è a questo che penso. Ciò che blocca la mia fervida immaginazione è l'incapacità della mia mente di scostarsi da un problema che coinvolge la nostra Italia da parecchi punti di vista non sempre considerati nell'insieme e forse per questo un po' trascurato: la carriera femminile. Io sono una donna. Donna e madre. Vivo in un paese che piange per il proprio scarso tasso di natalità, per l'invecchiamento della popolazione. Ma come fa una donna a progredire veramente nella propria carriera senza dover rinunciare al proprio vero e completo ruolo di madre? Sembra di vivere in un paese nonno che cerca a tutti i costi di mostrarsi giovanile, scrivendo SMS al nipotino, che però non ha permesso alla propria moglie di avere il proprio ruolo nella società. Sono cittadina di uno Stato in cui gran parte dei giovani sogna un lavoro all'estero, con cui potersi permettere una vita diversa da quella che si prospetta a casa. È questo che vogliamo? È questa la strada che abbiamo scelto di intraprendere insieme ai nostri rappresentanti politici? Fa veramente male chiederselo, ma non sono solo gli stimoli e gli aiuti per le donne capaci che non vogliono venir meno al proprio ruolo vitale che mancano. Mi sento parte di una gioventù orfana di valori, senza i quali è difficile avere sogni. Filomena. Cara Radio 24, si parla spesso di precariato, dei numerosi lavori atipici, ma non si considera mai un'altra forma di precariato forse più grave, perché presuppone una serie di prove che dovrebbero preludere per legge al posto di lavoro, quella dei vincitori di concorso che attendono per anni l'assunzione nella pubblica amministrazione, a volte invano. Questa è la condizione di chi, come me, ha partecipato e vinto un concorso pubblico per 39 posti di psicologo penitenziario presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il concorso è stato indetto nel 2003, ben 5 anni fa, ma a tutt'oggi i 39 fortunati possono solo considerarsi vincitori precari. A 2 anni di dure prove concorsuali ne sono seguiti altri 2 di blocco delle assunzioni, voluto dal governo Berlusconi e prorogato dal governo Prodi. E quando con la finanziaria 2008 i fondi per le assunzioni sono stati finalmente sbloccati, il Ministero della Giustizia ha subito emanato un decreto secondo il quale tutto il personale della medicina penitenziaria, psicologi compresi, veniva trasferito ad altro ministero, quello della Salute, senza alcun obbligo però da parte di quest'ultimo di assunzione dei vincitori del concorso 2003. Eppure le croniche carenze di organico del personale carcerario specializzato in questo settore sono clamorose: 16 psicologi di ruolo per 200 carceri, con una popolazione di quasi 60.000 detenuti. Sonia, Roma. Ricordo e una domanda. Dopo l'elezione del presidente americano Barack Obama, dopo il discorso del suo rivale e i riflessi sulla politica italiana, mi vengono alla mente le parole del mio professore di scuola, circa 40 anni fa. Prima di essere repubblicani o democratici, loro sono americani. Invece, prima di essere italiani, noi siamo democristiani o comunisti. Aveva proprio ragione. Non è cambiato niente. Ci sarà anche per noi qualche speranza? Ed ecco la mia domanda. Ma i candidati americani chiederanno ora i rimborsi elettorali ai loro cittadini? Francesco, 59 anni, imprenditore, Vicenza. Caro Francesco, la speranza non deve mai finire, ma il problema non è quello di non dividersi tra Guelfi e Ghibellini, tra interisti e milanisti, tra destra e sinistra. Anche in America, democratici e repubblicani hanno combattuto intensamente la battaglia per la Casa Bianca. Ma alla fine tutti hanno riconosciuto il vincitore e lui, lo stesso Barack Obama, tra le prime parole ha reso omaggio allo sconfitto per il suo grande amor di patria. È questo spirito di unità che l'Italia sta dimenticando, uno spirito di unità che è anche riconoscere un'identità comune e quindi valori e interessi condivisi. E questo dovrebbe essere alla base, soprattutto a livello istituzionale. Il compito della politica è in questa prospettiva molto importante. Spetta alla maggioranza fare il primo passo, ma l'opposizione non deve fare subito uno sgambetto. La prova l'avremo presto, sul federalismo, per esempio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.